Italia in controluce. Italia in controluce, buongiorno da Vincenzo Miglietta. Crolla il potere d'acquisto delle famiglie, quasi 9 milioni in disagio economico grave, aumenta la disoccupazione soprattutto tra i giovani. A fotografare le difficoltà del nostro paese l'annuale rapporto dell'Istat presentato questa mattina qui in Parlamento. Secondo l'Istat, tuttavia, gli italiani si sentono sì in difficoltà, ma la percezione della loro qualità della vita è comunque alta. È così anche per voi, aspettiamo i vostri SMS al 349-238-6666. Una fotografia dunque quella dell'Istat che indica un forte disagio in tante fette del paese. Come sempre accade, è sbagliato però generalizzare, ma certo sono i giovani quelli colpiti maggiormente. Ha seguito la presentazione del rapporto Istat la collega Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno Vincenzo. Allora Alessandra, dati quelli dell'Istat tutto sommato non sorprendenti e comunque figli della crisi? Eh sì, dati attesi, quella dell'Istat è una fotografia di un'Italia che arranca, di famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, di un paese sempre più in difficoltà. Cresce l'area del disagio con 15 milioni di persone in situazione di deprivazione economica, un italiano su quattro, e di questi 15 milioni, 8 milioni e mezzo si trovano in una condizione ancora più grave, famiglie che l'Istat scrive non possiedono neanche 800 euro in banca o sotto la classica mattonella per eventuali emergenze. E del resto la crisi morde, i redditi, anche quelli dei ceti medi, sono stati erosi, soprattutto a causa dell'inasprimento della pressione fiscale. Il PIL è crollato nel 2012, trascinato dalla domanda interna, mentre quella estera ha tenuto, seppur in misura minore rispetto al 2011. Il potere d'acquisto è andato giù del 4,8%, una caduta di intensità eccezionale, secondo l'Istituto di Statistica, anche i consumi mai così bassi negli ultimi 20 anni. Una crisi che ovviamente ha effetti diretti sul mercato del lavoro. Sono 6 milioni le persone potenzialmente impiegabili nel processo produttivo, se si sommano i disoccupati agli sfiduciati, cioè persone disposte a lavorare ma che non cercano, colpiti soprattutto i giovani. L'Italia ha la quota più alta d'Europa di ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non lavorano né studiano, i cosiddetti NEET, arrivati a 2 milioni 250 mila nel 2012, pari al 23,9%. Dato curioso invece, cresce di 110 mila unità l'occupazione femminile, ma di bassa qualifica, e come strategia anticrisi, cioè donne che lavorano perché hanno il marito disoccupato. Ma concludiamo così con una nota positiva: nonostante il quadro a tinte fosche, come dicevi anche tu prima Vincenzo, gli italiani si dicono soddisfatti della propria qualità della vita. A compensare infatti l'insoddisfazione economica sono le relazioni amicali e familiari, il tempo libero, la salute, e il voto attribuito è 6-8, quindi sufficienza piena. E sono poi i giovanissimi più colpiti dalla crisi a mostrarsi ottimisti. Il 45% ritiene che la propria situazione migliorerà. Quindi Alessandra, una crisi economica che morde, come dice l'Istat, tante classi sociali, ma restano ampi gli aspetti di ottimismo da parte soprattutto dei giovani. Un aspetto questo che mette in luce l'Istat, i nostri primi messaggi, i vostri primi messaggi al 349-238-6666, però non la penserebbero in questo modo. Situazione disperata, scrive un ascoltatore: dal 6 giugno sarò in cassa in deroga perché l'azienda presso cui lavoravo part time chiuderà, la qualità della mia vita sarà sempre più bassa, scrive Serena dalla provincia di Savona. Tu Alessandra hai raccolto comunque diverse interviste alla presentazione, lo ricordiamo qui a Montecitorio, del rapporto annuale dell'Istat, giovani quindi quelli colpiti soprattutto dalla crisi. Sentiamo allora il commento di Laura Sabatini, capo dipartimento statistiche sociali dell'Istat, che ci parla proprio di questi aspetti. Cresce l'area del disagio in Italia, le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà? Assolutamente sì, la caduta del reddito disponibile che c'è stato in questi anni e la caduta del potere d'acquisto delle famiglie ha fatto sì che si raddoppiasse in 2 anni il numero di famiglie che sono in grave deprivazione e che vivono quindi un grande disagio. Addirittura arriviamo a un quarto della popolazione che è in questa situazione che è stata in questa situazione di grave disagio o nel 2011 o nel 2012 o in tutti e due gli anni. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, quanto ha pesato la crisi? La situazione del mercato del lavoro è particolarmente critica. Quello che va sottolineato è che abbiamo due fenomeni fondamentali. Un primo fenomeno è quello della caduta dell'occupazione, che a partire dal 2008 è stata di 500.000 unità. Il calo è stato molto più accentuato al sud, che ha visto che ha avuto un calo di occupati 3 volte superiore a quello del nord del paese. Il segmento più colpito da un punto di vista dell'occupazione è stato quello dei giovani. I giovani hanno perso 7 punti di tasso di occupazione, 727.000 occupati in meno. E contrariamente a quello che si pensa, avere una laurea paga di più nella possibilità di trovare un lavoro o comunque di mantenerlo, perché i giovani che sono più colpiti sono quelli con un basso titolo di studio o con il diploma. Così dunque Laura Sabatini, capo Dipartimento Statistiche Sociali dell'Istat. Ancora i vostri messaggi: non pesa tanto il sacrificio che devo fare io e mia moglie quanto le rinunce da imporre ai figli, soprattutto se piccoli. La mia vita è cambiata, è peggiorato il mio tenore, ma mi sento una privilegiata perché sia io che mio marito abbiamo un lavoro e possiamo ancora prenotare una vacanza, non più in albergo ma in campeggio. Speriamo bene, scrive un'altra ascoltatrice. Dal 6 giugno sarà in cassa in deroga, e questo lo aveva letto di Serena da Savona. Ma quindi questa è la fotografia sull'Italia. Ma da dove ripartire? Quali sono gli obiettivi del governo? A cosa dobbiamo guardare per avere un po' di ottimismo? Sempre al microfono di Alessandra Schepisi, il ministro del lavoro Enrico Giovannini. Pensare che la crescita si faccia attraverso modifiche normative è sbagliato. La crescita la fanno le imprese e i lavoratori, come avevamo scritto nel documento anche dei cosiddetti saggi. Allora, da questo punto di vista, noi possiamo cercare di favorire l'occupazione, ma se le imprese, il mondo del lavoro non è propositivo, non è aperto al futuro, è chiaro che non riusciremo. Gli strumenti sono anche naturalmente il credito alle imprese, sono anche la propensione all'innovazione, sono anche quelle debolezze che abbiamo visto oggi da questo rapporto annuale le imprese stesse devono cercare di superare. In questo senso sappiamo che la strada è difficile e lunga. La ragione per cui ci stiamo concentrando sull'occupazione giovanile è che avere così tanti giovani così a lungo disoccupati può avere degli effetti psicologici permanenti, come ci mostrano alcune analisi economiche, che poi hanno effetti di lungo termine. Essere disoccupati o non riuscire a entrare sul mercato del lavoro per un anno o 2 anni evidentemente ha un effetto psicologico molto forte. Quindi è preponderante anche l'aspetto psicologico per chi ha perso il proprio posto di lavoro. Le ricette del governo, lo ricordiamo poi, saranno oggi illustrate le parti sociali proprio dal Ministro del Lavoro nell'incontro alle 16 al Ministero del Welfare in via Veneto. Un focus particolare lo dedichiamo alle imprese, abbiamo parlato dei giovani, delle famiglie, ma se è in difficoltà chi produce, è in difficoltà tutto il Paese. Sentiamo allora su questo il capo Dipartimento Statistiche Economiche sempre dell'Istat, Roberto Manducci, al microfono sempre di Alessandra Schepisi. Il sistema delle imprese Italia mantiene una vitalità abbastanza sorprendente, se vogliamo. Noi abbiamo analizzato i dati del censimento, anche accelerando l'elaborazione di queste informazioni proprio per questa occasione. Emergono delle ampie aree del sistema produttivo molto dinamiche, anche nel settore delle piccolissime imprese. Il ruolo dell'imprenditore è fondamentale, i settori di imprese più performanti hanno imprenditori tendenzialmente laureati, queste imprese hanno sperimentato dei passaggi generazionali recenti e quindi il potenziale, diciamo, competitivo è molto alto, anche sui mercati esteri. Il problema è che adesso, dopo 7 trimestri di recessione, effettivamente il sistema delle imprese, pur avendo queste potenzialità, è in una situazione di fortissima sofferenza. In particolare siamo molto preoccupati per l'affievolimento della spinta delle esportazioni, che finora hanno rappresentato il motore della poca crescita che abbiamo avuto, e i dati dei primi 3 mesi dell'anno dicono che anche dal lato dell'export c'è stato un ripiegamento, e quindi questo è un elemento molto preoccupante. Fortissima sofferenza dunque anche per chi produce, per il mondo delle imprese in difficoltà, anche un settore storico per l'Italia, ossia l'export. Questo ci ha detto Roberto Manducci, sempre dell'Istat. Leggiamo velocemente alcuni sms. Preferivo la promessa di 1 milione di posti di lavoro non mantenuta a quella mantenuta di impoverirci perché ce lo chiede l'Europa. Qualità della vita sufficiente? Si chiede un nostro ascoltatore, ma era la nostra domanda in base ai dati dell'Istat. Direi che è una fandonia bella e buona. Pensionato, 2 figli, senza lavoro, sono ragazzi di oltre 20 anni, emigreranno in Germania. Sto raschiando il fondo del barile. Chi ringraziare? PD o PDL? Scrive un altro ascoltatore. Insomma, la situazione non è semplice. Tutto ciò deriva anche da quanto ha scritto oggi l'Istat nel suo rapporto annuale. Ringrazio Alessandra Schepisi per il suo contributo e per le sue interviste. Questa mattina Italia in Controluce si ferma qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.